Orsù, popol drudo, snuda le mani. Non vedi che giungon Meazza e Rosciani, i signor di finanza dagli acuti cervelli che mai ne furon visti sì lucidi e belli. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. I would like to writing and singing a song in English, tongue that I have studied at the medium school. I'd surely find a way to recreate the original. Allora, io volevo dirti, se non te ne fossi accorto, che parlo l'inglese esattamente come Elio, per cui per me non ci sono più speranze di entrare a Londra. Ma no, non è vero. A parte che hai sempre tempo per migliorarti, sei giovane, quindi puoi farlo. Buongiorno, Deborah. Sì. Anzi, good morning, Deborah. Good morning. Good morning. Welcome to Two of Coins, due di denari. The book is on the table and God save the queen. The cat is on the shelf, anche tanto per fare un po' di... Allora, perché abbiamo cominciato così? Perché vogliamo segnalarvi questa notizia. L'avrete vista sui giornali, l'avrete intercettata qui a Radio 24. Ma noi vogliamo girare il coltello nella piaga per tutti coloro che erano pronti a partire per fare il cameriere per imparare l'inglese. Ma io ti sorprenderò, la butto sulle cose serie. In realtà è uno dei primi passaggi della uscita dall'Unione Europea, la libertà di circolazione delle persone. La nuova che legge è un sull'immigrazione. Dogma per l'Unione Europea, tutti i paesi dell'Unione Europea appunto si reggono su questa libertà di attività economica e di circolazione delle persone. Ovviamente, non sorprendentemente, verrebbe da dire not surprisingly, gli inglesi cominciano proprio da lì e dicono benissimo. Allora, prima cosa che facciamo, stabiliamo noi se c'è libertà d'ingresso o non c'è. E quindi dal 1 gennaio del 2021 ci saranno queste restrizioni, tra cui quella che abbiamo voluto così un po' con autorevole leggerezza ricordarvi, la conoscenza della lingua inglese. Ma quanto? Cioè, che si chiederanno il B1, il C1, che livello chiederanno? Lo scopriremo solo Brexit seguendo. Intanto ti vedo però con un utile fascicolo sul tavolo che magari potrebbe essere utile segnalare proprio per il problema che abbiamo testé rappresentato. Esatto, perché in edicola oggi... Ma non so se mi inquadrano da qua, perché da quando abbiamo due telecamere ce n'è una qua e una là, io non so dove inquadrare sta roba. Vai, intanto che allora, mi decido. Intanto che c'è questo grace period, cioè questo periodo di tolleranza, per così dire, in cui ancora non ci sono questi vincoli per entrare nel Regno Unito, allora vi segnaliamo. Oggi con il Sole 24 Ore c'è un fascicolo molto utile, secondo me, studiare all'estero sia per chi vuole farlo nell'anno delle superiori, sia per chi vuole farlo anche successivamente, magari anche ha già trovato un lavoro in Italia, ma preferisce fare un'esperienza all'estero, anche perché, come spiega questa stessa guida che trovate in edicola, queste persone che decidono di fare un'esperienza all'estero effettivamente hanno un tasso di occupazione migliore di quasi 6 punti percentuali rispetto a chi non ha un'esperienza all'estero, e anche la retribuzione iniziale è effettivamente, statistiche parlando, più elevata, di circa un centinaio di euro. Si parla di una retribuzione iniziale di 1200 euro per chi non ha estero nel curriculum, invece 1307, quindi un centinaio di euro, 98 per la precisione, per chi invece ha un'esperienza all'estero. Un'altra declinazione dell'argomento che stiamo affrontando in questo momento: per chi si avventurava nello scrivere documenti in inglese utilizzando Google Translator con il copia e incolla, deve stamattina ricevere una brutta notizia. È morto il signor Larry Tesler, che è proprio il padre del taglia copia e incolla. Sì, vorremmo il santo quasi... patrono dei giornalisti, anche un po', mi verrebbe da dire. Beh, dei giornalisti, degli studenti che devono preparare una tesi, una tesina, una relazione, ma secondo me pure dei manager per certi versi. Il cut and paste, cioè il taglia e copia, il taglia e incolla, ha aiutato molti di noi e tuttora li aiuta. Io almeno una prece direi per il signor Larry Tesler, che se non ci avesse pensato qualche sito internet questa mattina sarebbe rimasto sconosciuto ai più. Noi abbiamo voluto segnalare la sua scomparsa. Naturalmente non vogliamo certo ironizzare sulla dipartita di una persona, però appunto lui è diventato famoso, per così dire, per aver inventato questi comandi fondamentali del COP, taglia, copia e incolla. L'aveva esatto. inventati all'interno di un software per l'elaborazione dei testi. Per la Xerox, dove aveva lavorato appunto fino al 1980. Poi ha lasciato questo grande gruppo e è andata a lavorare in Apple. E mi tocca anche stamattina pronunciare la parola Amazon, perché no, purtroppo per carità, basta. Ha lavorato anche lì per Yahoo e per la società di analisi genomica 23andMe, immagino che si pronunci 23andMe, senza mai abbandonare il campo dell'interazione uomo-macchina. Per cui un grande saluto e tutto il nostro riconoscimento al signor Larry Tesler. E stamattina però noi non parleremo né di lui né di tutto quello che ha fatto, anche se un po' di tecnologia ci tocca parlare quest'oggi, perché c'è il Nasdaq negli Stati Uniti che ormai ha spiccato il volo e non lo acchiappa più nessuno, il listino dei titoli tecnologici. Wall Street continua a correre incurante del coronavirus. Questa pensiamo che sia una buona notizia, però allora nel dubbio noi abbiamo convocato, come d'abitudine qui a Due di Denari, un esperto di valore mondiale, e allora diamo il benvenuto nei nostri studi, il bentornato anzi, esatto. ad Alessandro Tentori, capo degli investimenti per l'Italia di AXA Investment Managers. Bentornato. Buongiorno. Ha pronunciato correttamente. Sì, non era inglese ma va bene lo stesso. Va bene, e cosa vuole, uno s'arrangia come può, insomma, get by mi pare si dica in inglese, ma sicuramente troveremo qualche insegnante di inglese che potrà aiutare in diretta. Goodbye and get going, come diceva il nostro Mario Platero. Detto questo, prima di partire con Investire Informati, naturalmente parte per la quale ci aspettiamo come al solito tutte le vostre osservazioni all'800240024. Se c'è qualche tema di mercato che vi incuriosisce in maniera particolare, c'è questo tema del decoupling, l'economia va da una parte, la borsa va da un'altra, ci sono ancora i rendimenti dei titoli di Stato che sprofondano sempre più in basso, buone notizie o cattive notizie, insomma, come la mettiamo con i nostri risparmi? Potete anche scriverci al 349-238-6666, potete inviarci anche i vostri messaggi appunto su WhatsApp, che possono essere anche vocali, per cui direi che adesso siamo pronti a partire. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio. Questa canzone è sì. dedicata a te, Deborah. Sì. Perché oggi non solo ci aggiornerai sulle borse, sì. puntualmente. Sì, diciamola tutta. Ma poi sarai anche al comando di sì. Focus Economia, quindi stay tuned, restate collegati. Ma come non contenta, sempre. Ma non contenta. Esatto, non contenta, ti sposterai a Verona. Dove ti attenderò domani. Esattamente, ti raggiungerò senza meno, perché domani saremo a Verona a Progetto Fuoco. Cioè tutto questo scomodare Giovanotti per arrivare a dire che domani siamo lì, no, a questa. No, per dire che non t'annoi, questo no, è oggi non, proprio non c'hai il tempo di annoiarti. E poi dopodiché, non so, domani dopo Progetto Fuoco adesso troviamo qualche altra cosa da farti fare, vedrai che sicuramente l'azienda che pensa a te non vorrà che tu posso ti annoi nella giornata di domani. Posso venire a dare una spolverata alla tua scrivania. Senti un po' invece, qua non si sono sicuramente annoiati gli uomini della Guardia di Finanza, che hanno denunciato 223 persone. Anche questa è una notizia che ha fatto molto parlare di sé nelle ultime ore, soprattutto ha spaventato molte persone che, come dire, aggirano le norme di corretto comportamento per seguire le pay TV. E a quanto pare appunto invece queste 223 persone intercettate dalla Guardia di Finanza sono accusate di aver comprato illecitamente pacchetti acquisiti e ricodificati dei principali canali a pagamento. E però non si fa così. E no, perché il codice penale dice che si rischia, non è tanto d'accordo, esatto, si rischia di essere condannati per ricettazione, quindi c'è la prospettiva di una possibile reclusione fino a 8 anni, multa pari a 25.000 euro. E poi ci sono le sanzioni che riguardano il diritto d'autore, quindi confisca del PC o della Smart TV, del tablet, insomma tutto quello che è stato utilizzato, dei devices utilizzati per poter appunto sfruttare questo illecito comportamento. C'erano dei divertenti commenti ieri su Facebook di alcuni amici che segnalavano: in Italia sono molto più spaventati del fatto di essere, come dire, agguantati dalla Guardia di Finanza per queste pratiche piuttosto che del coronavirus. Effettivamente normalmente, insomma, noi ce ne inventiamo un bel po' per rimanere tutta la giornata attaccati al televisore e a, appunto a, qualche, a, a tutte le trasmissioni televisive che ci piacciono. Risparmio, i PIR, allora questo vale la pena segnalarlo perché magari sarà anche tema di approfondimento di una prossima puntata di Due di Denari. Come sapete c'erano grandi attese appunto da parte dell'industria per la ripartenza della fase 3 dei PIR, questi prodotti appunto individuali di risparmio che, come sapete, con il patto sottoscritto all'inizio appunto di stare su questi prodotti per 5 anni si ottiene un notevole vantaggio fiscale. E allora, dopo che c'era stato questo blocco lo scorso anno perché la normativa aveva rivisitato la loro composizione e le società di gestione del risparmio avevano bloccato la raccolta proprio perché non erano dell'idea di fare compliance con le nuove disposizioni legislative, adesso invece c'è stato il passo indietro e la raccolta può ripartire, ma in realtà non è successo granché perché evidentemente nell'incertezza legislativa forse le SGR non spingono più di tanto, forse con il mercato che è cresciuto molto sono un po' cauti anche su questi prodotti, però il punto è che insomma l'anno, il 2020, è partito un po' in sordina per i PIR 3.0. Tra l'altro erano stati anche un po', per così dire, funestati dal fatto che il loro debutto, quello che aveva incontrato invece molto successo, aveva anche coinciso però con un anno molto brutto per la gran parte degli asset, della gran parte delle possibilità di investimento, e questo aveva anche un po' scoraggiato, ce l'avete segnalato in tanti qui a Due di Denari quando abbiamo parlato in più occasioni dei PIR, e torneremo a parlarne. Ti voglio segnalare che l'Unione Europea ha aggiornato la lista dei paesi non cooperanti in materia fiscale e c'è una sorta di ammonimento per la Turchia, e quindi la Turchia dovrà adeguarsi, diventare diciamo un po' più cooperante entro la fine dell'anno, altrimenti blacklist, cioè lista nera. La quale lista nera, di per sé uno potrebbe dire vabbè, e allora, e invece no, perché poi all'interno dei singoli paesi ogni paese può fare perno su questa lista nera per stabilire che ad esempio i rapporti commerciali o eventuali depositi, trasferimenti di denaro eccetera sono sanzionati o sono particolarmente vigilati, non possono godere di agevolazioni. Nella lista nera ci sono per adesso una dozzina di paesi, però stiamo parlando per ora di cose esotiche. La Turchia è in lista cosiddetta grigia. I paesi esotici, pesco qua e là, le Cayman, Panama, le Seychelles, le Samoa americane, le Fiji e così via. Tutti posticini che mi piacerebbe un giorno visitare per una splendida inchiesta, specialmente quelli che stanno nel Golfo del Messico. Per mi sembrano bei posti. Sì, anche un'inchiesta di qualche mese, di qualche anno. Io non enfatizzerei questa notizia e il fatto che vuoi trasferirti in queste località per un'inchiesta, perché se ti acchiappa Leonardo Manera ci fa tutto il suo film, come tu sai, e quindi la chiuderei qua. Io e le mie birinzini, guarda. Sì. Allora, non vorrei essere nei panni di mamme e papà che in questi giorni sono alle prese con i festeggiamenti di Carnevale e tutto l'addobbo sui bambini, perché pare che si spenda un po' di più rispetto all'anno scorso. Per i costumi si va dai 37 euro di una maschera per bambino, che è più cara di almeno il 16% rispetto allo scorso anno, ai circa 60 euro di un abito da adulto, più 8%. Accidenti, cioè, bisognava mettere nel paniere Istat quello che rileva l'inflazione, così ci avremmo fatto una crescita. Ma se tu hai la fortuna e il privilegio, o dal mio punto di vista la sfortuna, perché io non sono una grande amante del carnevale, di andarlo a festeggiare a Venezia, il prezzo sale molto di più e devi spendere almeno più di 200 euro per presentarti dignitosamente a questo carnevale. Ce lo racconta l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, che non ha mancato ovviamente l'occasione per andare a sfrucugliare un po' anche le abitudini degli italiani in merito a questa ricorrenza. Oh, e poi siamo, come sapete, entrati da lunedì nella era della RC Auto con sconto sì, famiglia, anche se vi invitiamo davvero a segnalarci se avete avuto occasione di parlarne con un agente, un assicuratore, se lavorate per delle assicurazioni avete già delle indicazioni su questo, perché ci risulta che il tutto sia partito un pochino al buio per quanto riguarda l'applicazione pratica. Comunque ci sono state delle stime di impatto di questa RC Auto formato famiglia, quella che appunto consente il maxi sconto, l'applicazione migliore del miglior premio su tutti i veicoli della famiglia assicurati, e ci si evidenziano risparmi potenziali anche superiori al 50%. Questo appunto calcolando la differenza che sta tra la classe numero 1 e la classe numero 14, che sono appunto i due estremi. Segugio.it ha fatto una comparazione e secondo questa comparazione l'applicazione di questa nuova RC familiare avrà impatti però molto inferiori al previsto e contribuirà a rendere la classe bonus malus sempre meno significativa. Benissimo, allora è tempo di partire con il tema di oggi. Ti preannuncio, Mauro, che su WhatsApp al 349-238-6666 ci sono già delle domande anche molto puntuali e pertinenti per Alessandro Tentori questa mattina, e quindi parleremo di mercati che stanno diventando sempre più sorprendenti. Pensa che mi sono ritrovata alcuni report che sono circolati in questi giorni e prima che scoppiasse il coronavirus, e qualcuno aveva detto anche in alcune interviste rilasciate al Sole, in considerazione del fatto che ci sono le elezioni americane, quindi generalmente in questo periodo preelettorale l'economia un pochino si ferma, guardinga in attesa di capire che svolta politica o meno viene presa negli Stati Uniti, questo operatore aveva detto sarà un anno noiosissimo. E per fortuna siamo partiti con l'attenzione con l'Iran, è scoppiato il coronavirus, chi più ne ha più ne metta, e quindi già a febbraio incassiamo un bel bilancio interessante per la nostra rubrica del giovedì. E allora tutto questo dopo Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Buongiorno, sto chiamando per segnalare una disavventura che ritengo abbastanza inaccettabile in questo secolo. Chiamo una ditta molto famosa per un preventivo per farmi montare delle tende da sole sul balcone. Prendiamo l'appuntamento, il giorno, l'ora, le lascio l'indirizzo, il cognome, tutto quello che serve all'operatrice, e a un certo punto, verso la fine della telefonata, lei mi chiede se ho un marito o un convivente, perché dovrebbe essere presente anche lui. Io le dico che non ce l'ho e le chiedo anche il motivo della sua presenza. Lei mi dice perché dovete decidere tutti quanti insieme. A quel punto io mi sono innervosita e ho cancellato l'appuntamento. Io spero non sia successo a nessun'altra e spero che non succederà mai più. Grazie, buona giornata. Insomma, questa grande azienda, che è veramente una grande azienda del settore, adesso noi abbiamo chiesto all'ascoltatrice di non fare nomi perché non ci sembrava tanto carino, ma è molto grande, la più grande in Italia, discrimina le single. Cioè, praticamente le avrebbero detto, poi ci ha spiegato nel dettaglio un po' più in privato appunto questa signora, pare che le donne vengono considerate non aventi senso pratico per l'allestimento delle tende in casa propria. Questa signora avrebbe detto: ma la casa è mia, pago io, ma perché non mi posso allestire le tende con voi? E quindi no, grazie, ci deve pensare suo marito. Ma io sono veramente sgomenta. E oltretutto io, avendo una discreta esperienza di coniugio, posso anche dire che sostanzialmente la moglie basta e avanza per decidere di solito, anche almeno se lasciateci almeno le formalmente tende. Per carità, però guarda, forse è anche un tema di investimento questo, se poi conta di più il parere dell'uno o dell'altra o dell'una o dell'altro. Tutto questo naturalmente all'interno di Investire Informati. Investire informati. Allora, tantissimi messaggi questa mattina, devo dire che oggi hanno voglia di parlare di mercati finanziari i nostri ascoltatori. Comincerò con il più bizzarro, di Osvaldo da Cuneo. Se oggi uno vincesse 5 milioni di euro alla lotteria, quale potrebbe essere una saggia allocazione finanziaria, visto che è tutto così caro? Mi soffermo su quest'ultima parte della frase, Alessandro Tentori. Intanto, ha ragione o non ha ragione l'ascoltatore? È tutto caro diventato? È tutto più caro rispetto all'anno scorso, sì. Ma in termini assoluti, se guardiamo i multipli dell'azionario, non siamo a livelli stratosferici o estremi. I tassi di interesse hanno ancora, soprattutto in Italia, hanno ancora del potenziale. Quindi sì, rispetto all'anno scorso è vero, però non è vero in termini assoluti. Ecco, ma il clima è sempre un po' difficile da decifrare, perché abbiamo avuto, adesso per carità ci sono delle aspettative, addirittura c'erano aspettative di noia, come ci ricordava prima Deborah, però abbiamo avuto già diversi, in questi primi neanche due mesi dell'anno, diversi cosiddetti cigni neri. Mi riferisco prima alle tensioni geopolitiche, poi c'è stato un ulteriore surriscaldamento delle questioni dei dazi e poi finalmente abbiamo, come dire, concluso in bellezza il trittico col coronavirus, che sta provocando diversi danni anche economici, non bastassero appunto gli impatti emotivi e quelli sanitari. E questo, nonostante questo però, i mercati, lo ricordava prima Deborah, sono